Europa 24. Un saluto da Maria Piera Ceci. Vietato l'ingresso al Parlamento europeo per l'ambasciatore russo presso l'Unione Europea. L'annuncio è arrivato dal presidente Martin Schulz. È la reazione alla blacklist di politici europei indesiderati stilata da Mosca. La crisi greca, l'incontro di questa sera fra Jean-Claude Juncker e Alexis Tsipras non prevede che siano prese decisioni conclusive sul negoziato, lo ha detto il portavoce della Commissione Europea. La commissaria Kristalina Georgieva ha spiegato che la Commissione sta costruendo il ponte per avvicinare le posizioni fra gli stati Eurozona e le tre istituzioni, cioè Commissione, BCE e Fondo Monetario. È la prima volta che un esponente dell'esecutivo comunitario indica chiaramente che ci sono delle divergenze fra i creditori. Ed ora ci colleghiamo con Bruxelles, dove sta seguendo per noi le giornate europee dello sviluppo Sergio Nava. Sì, buongiorno da Bruxelles, dove si sono aperte oggi ufficialmente le giornate europee dello sviluppo. 5.000 partecipanti e 500 oratori stanno animando da questa mattina il forum, che prosegue fino a domani. Firmata in mattinata la partnership tra la Commissione e la Bill and Melinda Gates Foundation, Bruxelles ha annunciato 23 milioni e mezzo di finanziamenti per piattaforme nazionali sulla nutrizione, che permetteranno ai paesi sottosviluppati di monitorare i progressi nella riduzione della denutrizione. L'obiettivo è ridurre a 7 milioni entro il 2025 il numero di bambini seriamente malnutriti. Ad aprire i lavori i presidenti di Commissione Europea ed Europarlamento, Juncker e Schulz, i due, secondo quanto abbiamo potuto verificare, si sono fittamente intrattenuti a parlare a margine del forum, con ogni probabilità degli sviluppi del caso Grecia che stanno tenendo banco qui a Bruxelles. Nel discorso di apertura Juncker ha ricordato che l'Europa ha degli obblighi negli aiuti allo sviluppo, ha osservato che ci sono stati progressi significativi, ma ha riconosciuto che c'è ancora molto da fare. Juncker ha definito inaccettabile il fatto che molti paesi comunitari abbiano ridotto gli aiuti ai paesi sottosviluppati e ha toccato anche il tema dei flussi migratori, affermando che Bruxelles non intende cambiare posizione sulla propria agenda, nonostante l'opposizione di alcuni paesi in materia di immigrazione. Da parte sua il presidente dell'Europarlamento Schulz ha evidenziato come il 2015 debba essere l'anno chiave per l'agenda dello sviluppo. Da Bruxelles è tutto. Grazie a Sergio Nava. Andiamo a Francoforte per la riunione della Banca Centrale Europea. Alessandro Merli. Sì, buongiorno, i tassi sono rimasti invariati, come avete già detto nel giornale radio, e del resto questa è una decisione ampiamente attesa, l'attenzione è concentrata sulle parole di Draghi in conferenza stampa, comincerà tra 25 minuti, Draghi probabilmente starà molto abbottonato sul caso Grecia, visto che la BCE è parte in causa, ma comunque non vorrà in qualche modo creare inconvenienti alla trattativa che, come avete detto, è entrata nella sua fase cruciale. Invece è probabile che il presidente della BCE si autocongratuli per il fatto che finalmente le manovre della BCE stessa stanno avendo qualche impatto sull'inflazione, che un po' sta risalendo, è tornata positiva per la prima volta da 6 mesi a questa parte, e per i segnali di ripresa nell'economia dell'Eurozona. Grazie ad Alessandro Merli da Francoforte. Un'ultima notizia: rispettiamo l'autonomia delle federazioni sportive, ma dopo tante opportunità perse e la completa crisi di fiducia nella FIFA, crediamo ci debba essere un cambio radicale e la garanzia di arrivare a soluzioni concrete. Così a parlare il commissario per la formazione, la cultura e lo sport Tibor Navracsics commenta le decisioni e le dimissioni del presidente della FIFA Sepp Blatter. Era l'ultima notizia di Europa 24. Un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.